Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oggi si parla di fumetti, vero? Beh, non proprio, però. No, insomma. Dai, mi hai detto che parlavamo di Batman. Sì, di... però non il Batman dei fumetti, quindi... C'è un Batman anche al di fuori dei fumetti. Ormai, film. Ahimè, sembra proprio di sì, lo sanno tutti. Vabbè, però. C'è il Batman dei cartoni animati, quello dei telefilm, che era quello un po' stupido, sì. Quello dei film, che invece è cool. Oscuro, no, poi c'è il Batman di Milano, che è questo nuovo Batman. Ma quale Milano? Sì. Ma Batman è a Gotham City, sì. Cioè a New York, sì. Che è anche Gotham City. Però invece qui a Chiedo Asilo parliamo del Batman di Milano. Ma non esiste un Batman di Milano, dai. Si tratta sicuramente di un impostore che si veste così. Sì, impostore, infatti, se ne stanno occupando gli organi giudiziari. Bene. La Batcaverna ritrovata in via Iraghi a Milano è quantomeno sospetta. Cosa ci fa una Batcaverna in periferia vicino a via McMahon, lì perché sul ponte? McMahon. Ah, McMahon. A Milano si dice via McMahon. McMahon. Ma cosa ci fa lì? Il problema è che il megaloft che ospita questa Batcaverna è stato accatastato come edificio per uso industriale e invece c'è la Batcaverna, cioè il proprietario deve dare spiegazioni se no scattano le supermulte, doveva accatastarla come Batcaverna. Cioè Batman deve dare spiegazioni della Batcaverna, sì. Ma se non si sa neanche che c'è la Batcaverna, Batman, è misteriosa. O chi per lui deve presentarsi, l'hanno anche chiamato e quindi... Ma se fosse davvero Batman? Ma... Non si può mica contestare a un supereroe di non aver dichiarato di avere un rifugio segreto, sì, cioè però, lo deve accatastare C1, C3, ma certo. C2, ma cosa? Ma Drago, mi dispiace Batman, ma la legge è uguale per tutti, quindi togliti quella maschera da deficiente e vedi di pagare le multe, così. Ma no, ma non è così, però insomma, voglio dire, hanno trovato una Batcaverna a Milano... Drago, non è serio, non puoi andare a fare le pulci agli immobili di uno che sconfigge i criminali, che insomma, che si dà da fare, risolve i casi alla polizia senza voler niente in cambio. Non insomma, so, fosse Diabolic, posso capire, Diabolico è un criminale con la tutina, sì. Però è un criminale, quindi se si scopre uno dei suoi rifugi è giusto agire legalmente, sì, per vie legali, ma no. Con Batman no, dai. Comunque, K, tranquillizzati perché si è poi risaliti al vero proprietario di questa Batcaverna e non è Batman, non è nemmeno Bruce Wayne. E chi è? Un prestanome? È un prestanome, beh, quello che stanno cercando di capire le forze dell'ordine. Lo so che ti sembrerà una pazzia, ma pare che Batman sia il figlio del sindaco di Milano. Ma scusa Tito, ma non è colpa mia, è proprio così, Si non è scritto sui giornali. Nessuno ha capito ancora. Cioè, il sindaco di Milano, la bambina Moratti, ha detto che ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Questo è quello che ha detto. Cosa vuol dire? Cosa c'entra il sindaco di Milano? È perché è la madre di Batman, capito? Ma come, la Moratti è la madre di Batman? Sì, c'è scritto così. La Moratti è la madre di Batman. Ma sei sicuro? Ma guarda che la madre di Batman insieme al padre sono morti quando lui era bambino, Vabbè, facciamo una cosa. Chiamiamo Batman e glielo chiediamo. Dai. Pronto? Sono Batman. Batman? Ma scusa, ma tua mamma è Letizia Moratti? Orso Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere, vieni. Vedi, alle domande dirette lui svia. Chiedo asilo! E ora, bambini, il sonnellino. Drago! E niente, dorme! E dorme come un angioletto! Ma come fa? Sonno! Sì, però non capisco, tu hai sonno? No, io no! Io nemmeno! Vabbè, si vede che lui si rilassa e dorme, no? E invece c'è tutto un nervoso dentro che mi attraversa, no? Chi lo dici? Roba che spaccherei tutto! Bravo, dai, spacca tutto! Vabbè, ma... Cosa? Spaccare tutto non serve a niente! Però, dai! Però poi arrivano le suore, mi fanno la puntura e mi addormento. E non mi piace, E perché fanno il TSO, No, il TSO no. E appunto. E sto qui dorme. Beato lui. E contiamo le pecore, dai, contiamo le pecore. Ma quali pecore? Ma le pecore, no, metaforiche. No, niente. Senti, la sai quella del fantasma formaggino? Allora, ci sono un italiano, un francese e un tedesco. Anzi, c'è un lussemburghese. O era un belga. Non mi ricordo. Nell'aria si insinua un profumino. Mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame in me. non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù. Chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane. Ma il cuoco in vacanza, c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Allora, tranquilli bambini e soprattutto tranquilli a tutti quelli che lavorano a questo asilo, perché la bambina Gelmini ha detto che la scuola reggerà ai miei tagli. Ha detto: ma la scuola reggerà ai miei tagli. Ma è da chirurgia, la chirurgia plastica. Non so, potrebbero dirla una cosa così, potrebbero dirla Sean e Christian. Chi? I due chirurghi plastici di Nip Tuck. Nip Tuck. Culo e camicia. Sì, Nip, uno si chiama Nip e l'altro si chiama Tuck. Ma no, si chiama, te l'ho detto, si chiama Sean e Christian. Ah, Sean e Christian. Nip Tuck vuol dire culo e camicia. Uno è culo e l'altro è camicia. Chissà chi è culo, ma... Ogni loro paziente nel telefilm rischia di non reggere i loro tagli, capito? Però la bambina Gelmini in camice bianco e il bisturi in mano, io me la vedo abbastanza. Con gli occhiali. Ma Drago, cosa fai? Tu senti la primavera che arriva, e anche la Gelmini. Diciamo che è la bambina Gelmini, che con la sua mania per i tagli, che mi intriga, perché me la vedo col bisturi. Ma mica è una cosa, guarda che non è mica scarnification, come si chiama quelle pratiche? Non lo so. Scarnification non esiste. Come no? Esiste. Esiste, non voglio sapere niente. È un tipo di tatuaggio tribale. E la Gelmini dici che... Non lo so, lo dici tu, cos'è col camice, il bisturi, senza occhiali, cos'è? È lei che ha la mania dei tagli. Sì, scusati, hai ragione. Comunque guarda che i tagli glieli suggerisce il bambino Tremonti, non è neanche farina del suo sacco. Ah, quindi... Anzi, gliele impone. Vabbè, impossibile, no? Impossibile. Ma in che senso? Nel senso che la bambina Gelmini è evidentemente una mistress e quindi non si fa imporre niente da nessuno. Ma smettila, cosa, il Tremonti è il master delle mistress. Ma no, no? Perché ogni mistress ha un master supremo che la domina. E questo master supremo è il bambino Tremonti? Certo. Ma che delusione, ma il bambino Tremonti non ha l'aspetto del master. Perché? E tantomeno del master supremo, capo. Ma come, perché? Ma è lì che gioca sempre con le figurine. Io non ho mai capito chi gioca con le figurine Panini. Io ho giocato con le figurine Panini, però non capisco perché un adulto debba continuare a giocare con le figurine Panini. Lei sta dicendo che è una questione un po' ad asilo Mariuccia, mi pare di capire. È una questione di insomma, non è più... Sì. L'Italia è il paradiso dei bambini, capo. Il paradiso di noi bambini e di voi bambini soprattutto. Sì, beh, certo. Perché in Italia si spia e il sogno dei bambini è sempre quello di spiare. È il buco della serratura. Il buco della serratura. Noi di buchi della serratura ce ne intendiamo moltissimo. Perché cosa ridi? Noi ne sappiamo tantissimo. Ah. Perché in tempi di intercettazioni telefoniche pubblicate come queste, è così, buchi della serratura dappertutto. Chissà perché non si riesce a non ridere dicendo buco della serratura. Buco della serratura. Cioè, non lo so. Buco della serratura. Vabbè, quindi questo infantilismo italico di cui parliamo sempre a Chiedo Asilo è alimentato al massimo dalla pratica della colazione al bar con lettura delle conversazioni private delle ragazze dell'Olgettina. Infatti non è male, no? Cappuccio brioche e donnine lascive che raccontano. Evviva. Il bello dettagli. È che queste intercettazioni però spaziano lungo tutto lo scibile umano. Quindi leggendole uno impara, che ne so, come funzionano i canoni d'affitto, oppure impara qualcosa sui culi flaccidi, però importante. Soprattutto si capisce a che punto stanno i rapporti tra i genitori e i figli. Sì, tutto attraverso il buco della serratura. Ma pensa, incredibile. Perché poi, scusa, le mamme e i papà delle Olgettine sono i primi tifosi delle figlie, sì, capito? Esatto. Come succede, non so, nel calcio giovanile, negli sport. Vanno le partite e gridano. Loro sì. Le spingono, le spronano. Però è giusto, perché i genitori devono assecondare le inclinazioni delle figlie. Tu stai è giusto sempre spronare. Dalla parte sì, dei figli. Sì, dei tu vuoi che ti venga assecondata ogni inclinazione. Certo. Però dipende dalle inclinazioni, no? Tipo, la propria figlia inclinata a 90 gradi non è proprio il massimo. Oggi al lavoro mi ha dato la pagella. Non sono la più brava, ma sono la più bella. Paola Bassani chiede asilo.